Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, le recenti vicende e traversie del Partito Laburista inglese e del Partito Socialista francese hanno fatto riaprire il confronto e il dibattito tra l'anima riformista e quella più radicale della tradizione socialista. Questo confronto però viene da lontano, non certo esclusivo né della Francia né della Gran Bretagna, e un'attenta ricostruzione della forza spesso paralizzante dell'ala massimalista della sinistra, in questo caso della sinistra italiana, è presente nel libro di uno studioso del Novecento, Paolo Buchignani, che ha pubblicato con Marsilio Ribelli d'Italia, il sogno della rivoluzione, da Mazzini alle Brigate Rosse, 414 pagine, 19,50 euro. Il mito della rivoluzione, scrive l'autore, rimane un mito potente, vitalissimo, fonte di grandi speranze, generose utopie, di fanatiche fedi e rovinose tragedie. La rivoluzione. E questo mito nasce appunto in Francia perché è radicato nel giacobinismo settecentesco. Quel mito in Italia avrà successo e anche una durata particolari e non sarà certo confinato alla sinistra. È un mito che nasce dalla testa di intellettuali sprovvisti di qualunque esperienza di governo che vogliono realizzare i principi ai quali credono senza alcuna concessione agli interessi che secondo loro corromperebbero ogni prospettiva e proposta politica. Scrive infatti Buchignani: a loro, elite di apostoli guidata da un leader carismatico, Robespierre o Lenin, D'Annunzio Mussolini, oggetto di identificazione di mistica venerazione, ritengono spetti l'alto compito, la missione, possiamo dire, di promuovere e guidare una mobilitazione del popolo concepita in un'ottica riconducibile a Rousseau come un'unità indifferenziata esprimente una sola indivisibile volontà. Quella mobilitazione non pacifica e democratica ma violenta dovrebbe scatenare una radicale inedita rivoluzione finalizzata a cancellare lo Stato borghese. È un mito che ha attraversato dunque la storia d'Italia, ne ha determinato molte svolte e continua anche a mantenere un suo fascino che continua anche a determinare delle conseguenze spesso nefaste. Di questo appunto adesso parliamo con l'autore. Buonasera Paolo Buchignani. Buonasera a lei. Paolo Buchignani, nel suo libro lei parla di uno spettro che si aggira per l'Italia, per usare una celebre metafora, quella della rivoluzione tradita, che sarebbe alla base di un certo ribellismo di fondo nella nostra società. Come ci può descrivere questo aspetto della rivoluzione tradita? È il mito della rivoluzione, diciamo, che il sogno della rivoluzione, che io lo farei partire da Risorgimento, insomma, dal pensiero di Mazzini. Il libro prende le mosse proprio da lì, cioè dall'idea che il Risorgimento è stata una rivoluzione tradita, proprio perché sarebbe mancata, secondo Mazzini, la rivoluzione del popolo, e quindi non si è realizzata né quell'Italia grande né quell'Italia popolare che Mazzini aveva appunto desiderato. E successivamente, diciamo, questo mito si sviluppa e si declina anche in culture politiche diverse, sia a destra che a sinistra. Uno snodo fondamentale, direi, rappresentato dal pensiero di Oriani, che adatta questo mito della rivoluzione tradita alla situazione post-unitaria. E poi successivamente si sviluppa con gli eredi di Oriani, per esempio le élite intellettuali del primo Novecento, che si consideravano l'aristocrazia profetizzata da Oriani, quindi futuristi, sindacalisti rivoluzionari, i nazionalisti, i bosciani, e poi l'interventismo della Grande Guerra e successivamente il fascismo delle origini e poi il fascismo, l'ala rivoluzionaria, diciamo, del fascismo che non era contenta del fascismo realizzato, perché sosteneva che anche quello era stato tradito, cioè anche il fascismo sarebbe stato una rivoluzione tradita. Insomma, pensiamo anche allo stesso Bottai, che dice: noi abbiamo fatto la rivoluzione, cioè abbiamo preso il potere non perché abbiamo fatto la rivoluzione, ma perché dobbiamo fare la rivoluzione. Il fascismo esistente non è ancora il vero fascismo, quindi sarebbe stato tradito dall'ala conservatrice del fascismo, dall'ala borghese del fascismo, e quindi il fascismo sarebbe tutto da fare. E facendo il fascismo si completerebbe anche il Risorgimento, perché anche il fascismo sostiene che il Risorgimento sia stato tradito e di conseguenza realizzando il vero fascismo, che per loro è quello antiborghese, rivoluzionario, eccetera, antiamericano, e anticapitalistico, realizzando quello si completerebbe anche il Risorgimento. Sull'altro versante il comunismo, direi, la sinistra, ma in particolare la sinistra rivoluzionaria, insomma i socialisti massimalisti, poi il Partito Comunista, sostengono anch'essi che il Risorgimento è stata una rivoluzione tradita, appunto, e che si completerebbe il Risorgimento realizzando il comunismo, viceversa, appunto, no? Perché per loro, diciamo che questo tema della rivoluzione tradita viene, e della necessità di completarla, viene utilizzato come una forma di legittimazione per le forze che non sono al governo per poterci andare, insomma, ecco. Senta, lei ha accennato alla figura di Oriani, una figura relativamente poco nota, magari nota forse ancora un pochino di più come scrittore. In che senso è stato così importante Oriani, è una figura appunto abbastanza dimenticata poi nella storia? Ma guardi, secondo me io sono molto d'accordo con la lettura che ne dà Ernesto Galli della Loggia, il quale mette in luce il fatto che da Oriani sono state un po' influenzate le principali culture politiche italiane. Cioè il fascismo in primo luogo, perché insomma fu celebrato da Mussolini ripetutamente, Oriani da Giovanni Gentile, ma anche addirittura la Gobetti e Gramsci, quindi l'azionismo in qualche modo e il comunismo, perché in Oriani c'è appunto questa idea della rivoluzione tradita, dell'idea che sia mancata in Italia una vera rivoluzione e vada completata. Quindi poi ognuno poi la declina nella direzione a lui più consona, diciamo. Quindi per il comunismo si completa attraverso il comunismo, come dicevo prima, per il fascismo attraverso il fascismo, ma anche Gobetti pensa che il Risorgimento, come è noto, sia stato tradito e che vada appunto realizzato compiutamente, ecco. E quindi Oriani in questo senso è uno snodo fondamentale, perché è celebrato dal fascismo ma anche da Gramsci, il Nazional Popolare è di Gramsci, e Gramsci parla di ora io non ricordo la frase precisa, ma l'ho citata nel libro, insomma, esalta Oriani come una figura fondamentale per quest'idea del Nazional Popolare, e Gobetti lo stesso. Gobetti si rifanno in particolare, direi, alla lotta politica di Oriani, al volume La lotta politica. Mi pare c'è un testo di Gobetti che richiama Oriani addirittura nel titolo. Ora non, in questo momento mi sfugge, ma insomma nel libro poi è ampiamente trattata questa parte, diciamo. Lei nota nel suo libro come alcuni veri rivoluzionari o persone che auspicavano la rivoluzione sul serio, dei giacobini le richiama, e sì, fa un riferimento a Mussolini e Togliatti, in realtà non condividevano poi questa impostazione, non erano millenaristi, per dirla col suo libro. Direi di sì, perché beh, cioè, loro erano dei politici più pragmatici, no? E quindi, cioè, a loro interessava prendere il potere, insomma. Quindi diciamo che l'idea del paradiso in terra la utilizzavano, ma non ci credevano, secondo me non credevano di fare la società perfetta, ecco, come invece credevano molti loro seguaci, questo sì. Però questo mito lo consideravano fondamentale, cioè addirittura io direi che Togliatti aveva anche un vantaggio su Mussolini in qualche modo, perché c'era l'Unione Sovietica era il mito incarnato, e quindi quando un mito si incarna ha più forza, no? Anche perché la distanza, la lontananza, quello che si sapeva poco, diciamo, degli orrori dello stalinismo, per esempio, insomma, rimaneva molto in ombra, ecco. L'Unione Sovietica era un po' il paradiso lontano, in qualche modo, che però aveva trovato una sua realizzazione. Quindi Togliatti non ha mai rinunciato al mito dell'URSS, anche dopo il 56, anche dopo la morte di Stalin, eccetera. Togliatti non ha mai rinunciato a questo, perché l'ha sempre considerato, come rileva Luciano Capagna, per esempio, una risorsa politica fondamentale, insomma. Che impatto ha avuto questo atteggiamento nella società e nell'evoluzione o nella non evoluzione della società italiana? Il mancato riformismo è dovuto a questo? Sì, secondo me sì, dal mio punto di vista ha avuto un impatto negativo, insomma, perché ha impedito di procedere su di una strada riformista, non so, come la socialdemocrazia tedesca o altre esperienze di questo genere. In Italia questo mito della rivoluzione, diciamo, in qualche modo ha bloccato uno sviluppo, diciamo, riformista, appunto, come io ho provato a dire nel libro, insomma. Quindi ha avuto sicuramente, secondo me, ha avuto un effetto negativo sia ovviamente nel periodo del fascismo, anzi della nascita del fascismo. Per esempio Domenico Settembrini fa vedere come nel momento dell'ascesa del fascismo ci siano delle grosse responsabilità del socialismo massimalista, che ha contribuito alla distruzione dello Stato liberale. Insomma, lo Stato liberale è stato attaccato da due parti, insomma, dal fascismo e dal socialismo rivoluzionario, insomma, e quindi sotto la spinta di queste due forze è crollato, anche se poi ha prevalso il fascismo fra le due, però anche il socialismo massimalista non ha contribuito certamente alla salvezza della libertà, insomma, in Italia. Quest'idea della democrazia liberale, che ovviamente i socialisti rivoluzionari non ce l'avevano, i socialisti riserati non ce l'avevano, volevano fare come in Russia, insomma, questo era, ma non ce l'aveva nemmeno Gobetti, perché anche Gobetti in quel periodo lì esalta il bolscevismo. Quindi che Gobetti sia un liberale, per esempio, è tutto da dimostrare. Io penso che non lo sia per nulla. Cioè, passa come liberale Gobetti, ma Gobetti è un giacobino, appunto, quindi se è giacobino non può essere liberale. E la controprova è il fatto che viene esaltato dai fascisti di sinistra, e i fascisti di sinistra a Gobetti piace moltissimo, per esempio da Alberto Ricci a Dino Garrone, ma successivamente ai cosiddetti fascisti rossi del pensiero nazionale, di cui io mi sono occupato in un libro, insomma, di qualche anno fa. Grazie a Paolo Bucchignani, autore di Ribelli d'Italia, il sogno della rivoluzione, da Mazzini alle Brigate Rosse. Buona serata. Buona serata, grazie a lei. Uno che alla rivoluzione ha sempre creduto fino alla fine è lo storico inglese Eric Hobsbawm, di cui esce il libro Viva la rivoluzione, il secolo delle utopie in America Latina, pubblicato da Rizzoli, 444 pagine, 25 euro. E sono vari traduttori, perché si tratta di scritti vari. Il libro è curato da Leslie Bethel. Come avete capito, il titolo è in spagnolo perché il libro riguarda la situazione dell'America Latina, un continente che Hobsbawm amava, di cui sentì molto il fascino, nel quale rintracciò la possibilità di compiere appunto le rivoluzioni, delle terre che egli visitò spesso e sulle quali scrisse molto. E prima di morire nel 2012, lo storico espresse il desiderio di raccogliere i suoi scritti sull'America Latina, e ne uscì appunto questo libro. Hobsbawm, ricordo, era stato membro del Partito Comunista inglese ed era affascinato dal potenziale in termini di rivoluzione sociale che era rappresentato dall'America Latina. In un saggio del 1960, per esempio, si entusiasma per la rivoluzione cubana, e ancora nel 1994 scrive della rivoluzione cubana in questi termini: aveva tutto la rivoluzione cubana, romanticismo, eroismo della lotta sulle montagne, capi che erano stati studenti universitari con gli impulsi generosi della giovinezza, un popolo osannante in un paradiso tropicale per turisti dove la vita pulsava al ritmo della rumba. Per di più, conclude, questa rivoluzione poteva essere acclamata indistintamente da tutti i rivoluzionari di sinistra. E poi nel libro si parla di guerriglie, di Messico, di Colombia, di Perù, per concludere nel 2002 che l'America Latina in realtà era profondamente cambiata. E lo storico scrive: se si chiedesse ai poveri dell'America Latina di confrontare le loro condizioni di vita all'inizio del nuovo millennio con quelle dei loro genitori, probabilmente con poche eccezioni risponderebbero che oggi si sta meglio, ma nella maggior parte dei paesi potrebbe raggiungere che la vita è più rischiosa e imprevedibile. Insomma, il grande mito della rivoluzione non aveva attecchito neanche lì. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 e alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Avrete riconosciuto sicuramente un brano di Keats, il musical ricavato dalle poesie di Thomas Stearns Eliot, e che ci introduce al tema di cui adesso parleremo, cioè i gatti. Lo facciamo con un libro che si intitola appunto Il libro dei gatti immaginari, curato da Gianfranco De Turris, pubblicato da Juvens, 394 pagine, 24 euro, illustrato dal Mazio Frau, con un sottotitolo molto chiarificatore del contenuto del libro: 25 racconti fantastici, realistici, onirici, storici, fantascientifici, polizieschi, orrorifici, surreali, romantici, tragici, umoristici, tristi e lieti, nello spazio e nel tempo, nel passato e nel futuro, con protagonisti felini e nome tutelare Howard Phillips Lovecraft. La vita felina ci porta verso una creatività, esordisce nella presentazione Marina Alberghini, che è la presidente dell'Accademia dei Gatti Magici. Questi racconti sono tutti originali e scritti da autori italiani, naturalmente hanno come protagonista sempre i gatti, visti in situazioni appunto molto differenti. Conclude il libro, come avete sentito dal sottotitolo, uno scritto di Lovecraft, uno dei padri della fantascienza, morto proprio 80 anni fa, che prende posizione sull'eterno confronto tra gatti e cani e, usando un linguaggio probabilmente non tanto politicamente corretto, si schiera decisamente per i gatti. Scrive infatti l'autore: non ho una spiccata antipatia per i cani, più di quanta ne possa avere per scimmie, esseri umani, negri, mucche, pecore, pterodattili, ma per il gatto ho sempre nutrito un particolare rispetto ed affetto sin dalla più tenera infanzia. E poi spiega addirittura come la differenza tra gatto e cane sia in realtà una differenza profonda tra chi ama i gatti e chi ama i cani, come ci spiegano queste righe. Naturalmente, in fatto di cani e gatti, la preferenza di ciascuno dipende dal proprio temperamento e punto di vista. A mio modo di vedere, il cane è prediletto da gente superficiale, sentimentale, emotiva e democratica, e gente che sente piuttosto che pensare, che attribuisce importanza al genere umano e alle convenzionali emozioni popolari degli sciocchi, e che trova la più grande consolazione nel servile e subordinato attaccamento ad una società di gregari. Simili persone vivono in un mondo di immaginazione limitata e accettano acriticamente valori convenzionali, preferendo sempre vedere gratificati i propri sentimenti, pregiudizi e ingenue credenze, piuttosto che godere del piacere eminentemente estetico e filosofico che nasce dal discernimento, dalla contemplazione e dal riconoscimento di una bellezza austera e assoluta. Con ciò non voglio dire che anche l'amante medio dei gatti non provi emozioni grossolane, ma soltanto rilevare che nell'ailurofilia, ossia l'amore per i gatti, esiste un fondamento del vero estetismo di cui, al contrario, la cinofilia è priva. Il vero amante dei gatti è colui che rifiuta di digerire la nozione sentimentale secondo cui tutte le brave persone amano cani, bambini e cavalli, mentre quelle cattive no. E sono da queste ricambiate. Egli preferisce ammirare e rispettare piuttosto che essere effusivo e amare svisceratamente, e non cade nell'errore di ritenere che una inutile socievolezza e amichevolezza o una devozione e obbedienza da schiavo costituiscano qualcosa di intrinsecamente ammirevole o da esaltare. E un gatto che fa da testimone d'eccezione troviamo nel libro di uno scrittore svizzero, Thomas Hürlimann, che si intitola L'ombrello di Nietzsche, pubblicato da Marcus e Marcos, 14 euro, 66 pagine, tradotto da Maria Giorgia Ulbar. Questo libretto parla in realtà di Nietzsche e di un'illuminazione che egli ebbe il giorno, in una giornata del 1881, in cui, passeggiando in Engadina, si fece sfuggire l'ombrello rosso portato via dal vento. Quell'apparentemente banale incidente in realtà segnò una sorta appunto di rivelazione per Nietzsche, alla quale l'autore ci introduce in questo libro con un paio di digressioni dedicate appunto al gatto Mufti, anch'esso sensibile all'utilizzo dell'ombrello da parte del padrone. Con Lovecraft abbiamo affrontato la differenza tra cani e gatti, e allora passiamo ai cani con Byron, il protagonista dell'ultimo libro di Antonella Boralevi, Byron, storia del cane che mi ha insegnato la serenità, è pubblicato da Mondadori, 180 pagine, 16,90 €. L'autrice è una convinta proprietaria di cani, anzi di uno dei 7 milioni di cani che vivono con le famiglie italiane. Il cane, scrive l'autrice, assomiglia al suo padrone, in sintonia con l'anima del padrone. Il cane ci sceglie, ci accoglie, ci capisce, ci conforta, ci sostiene, ci sorveglia, ci protegge, ci svela. Ci ama senza pretendere, senza giudicare, senza confrontare, ci ama come siamo, imperfetti. E Byron è appunto il cane protagonista di questo libro, che dà spunto a tante riflessioni da parte dell'autrice, a conferma del legame stretto e particolare che si crea tra animale e padrone, un legame di amicizia che così Boralevi ci descrive. Amicizia, come amore, è ormai una parola completamente privata di senso. Se il mio amico è il politico che ho corrotto, se amico degli amici è il mafioso, se è mio amico uno sconosciuto che conosce qualcuno che conosce qualcuno che conosce me, e addirittura io gli do un numero in sequenza, e se più amici ho su Facebook più valgo, allora l'amicizia è diventata altro. Merce, business, ricatto, illusione, ossimoro della mia solitudine. E poi ci sono i cani. Entrano nella nostra vita con la stessa modalità dell'amore a prima vista e la riempiono. L'assoluto del legame che il padrone ha con il suo cane ha la stessa indimostrabilità della fede religiosa. Il legame è così potente che a priori il cane assomiglia al suo padrone. La famosa scena con cui comincia la carica dei 101, il dalmata Pongo che guarda dalla finestra i cani che passeggiano con i loro padroni, mostra, con la acuta grazia dei cartoonist della Disney, quanto ciascun proprietario si sia fisicamente riprodotto nella scelta del suo cane. E a questo punto... Il confettino. Dei felini un po' cresciuti troviamo in due libri. Il primo è di Peter Brown, Il signor tigre si scatena, tradotto da Alice Pascutti per Il Castoro, 14 euro, che è l'avventura di una tigre che scopre il piacere di vivere con gli altri in città. E il secondo è il libro di Dalov Ipkar, Strisce e macchie, tradotto da Damiano Albeni per Orecchio Acerbo, 14,90 €. Qui l'incontro nella giungla è quello tra un tigrotto e un leopardino, e si parla dell'avventurosa ricerca di cibo che anche in questo caso si risolverà nel ritorno a casa. Ultimi arrivi. Avrete letto nei giorni scorsi della candidatura di Walter Veltroni a presiedere la Lega Calcio, e allora vi segnalo, per chiarirci le idee su cosa pensi Veltroni del calcio, l'ultimo suo libro, che si intitola La vita in 90 minuti, la poesia del calcio raccontata dai grandi campioni, pubblicato da Rizzoli, 440 pagine, 13 euro. Qui Veltroni raccoglie degli articoli e degli interventi che ha scritto, interviste naturalmente a grandi campioni del calcio, e che ha scritto per il Corriere dello Sport, e in questi interventi l'autore esprime quello che egli chiama l'amore per la magnifica ossessione del calcio, che giudica il gioco più serio che sia mai stato inventato. Poi vi segnalo il libro di un altro nome noto, Federico Rampini, giornalista, che interviene su due temi attuali, la globalizzazione e l'immigrazione, e sulle critiche, sulle preoccupazioni che questi fenomeni stanno suscitando in questa fase storica. Il libro si intitola Il tradimento, globalizzazione e immigrazione, le menzogne delle élite, e qui Rampini prende atto delle difficoltà appunto delle élite internazionali a rispondere alle grandi paure che serpeggiano nel mondo, paure alle quali spesso le opinioni pubbliche di tutto il mondo cercano di rispondere alzando, scrive Rampini, il ponte levatoio, isolandosi da tutto il male che viene da là fuori. Il terzo libro che vi segnalo è un romanzo di una serie appassionante, quello dello scrittore ambientalista e agricoltore americano Wendell Berry. Il libro si intitola La memoria di Old Jack, pubblicato dall'Indau, 240 pagine, 19,50 € ed è tradotto da Vincenzo Perna. Questo è un autore da continuare a tenere presente, da continuare a scoprire dopo la rivelazione italiana che avvenne con il libro Jabber Crow.